Fabio, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno signor Galantini. Buongiorno. Io l'ascolto da parecchio tempo, io sono tifoso della Fiorentina, premetto, cioè, ho 60 anni, sono tifoso da quando ha vinto il primo scudetto. Del 56, mi ridica la formazione. Sarti, Magnini, Cervato. Sì. Chiappella, Orza, Segato. O Rosetta, va bene. Rosetta, uh-huh, poi va c'era bene. Iuligno, Iuligno, Graton. Sì. Virgili, Montuori e Prini. Bravo, bravo, molto bene, molto bene. L'alternativa Prini era Bizzarri, sa, allora lei lo sa, esatto, meglio di me. Poi, allora poi allora i campionati se arrivavamo per 5 anni consecutivi secondi. Ma no, no, ma io le ho fatto un test perché mi dice no, tifoso della Fiorentina da 56, bene, c'è cosa promosso con pieni voto 10. Dica. Quest'anno è un anno così, stiamo andando male, chiaro, perché è inutile appellarsi agli arbitri perché chi perde 12 partite di un campionato per me non è difendibile, e quando per me è chiuso il ciclo di Prandelli. Io penso che lei sia d'accordo su questo, perché non è possibile che ogni partita, 18 partite consecutive, dopo 5 minuti sia sotto di 1-0 sempre, sempre nella stessa maniera, con quel gol preso per fuorigioco sbagliato e via andare. Penso che sia d'accordo su questo, no? È certo che poi, sono d'accordo. È chiaro, o meglio, sono d'accordo con lei che se parliamo di solo campionato, sembra essere un campionato da fine ciclo. Non dimenticherei, insomma, intanto aspetterei domani sera, perché si tratta di aspettare poco, no? Perché arrivare a un quarto di finale di Coppa Campioni sarebbe un'impresa di grande significato, e le dirò che lo sarebbe a maggior ragione dopo la rapina dell'andata, quindi comincerei a tener conto di questo domani sera, e non dimenticherei, l'ho già detto all'inizio, che comunque c'è uno 0-1 possibile da rimontare in Coppa Italia all'Inter nella partita di ritorno. Non sarà facile, anzi sarà molto difficile, però sono due cose che potrebbero ribaltare completamente la valutazione della stagione. È chiaro che se ci si ferma al campionato, i 35 punti della Fiorentina in 27 giornate sono una miseria con quella squadra, credo che questo sia oggettivo.